Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata e soprattutto buona Pasqua a tutti gli ascoltatori da parte mia, da parte di Mauro De Angeli, che questa mattina mi accompagna nella puntata di Magazine 24. Buona Pasqua naturalmente anche da Anita Panizza, che mi ha aiutato a preparare questo programma e mi assiste dall'altra parte del vetro. Un argomento assolutamente in tema con la giornata mi è parso, anche per la prevalenza, per l'invadenza, per la presenza costante che c'è su tutti i settimanali, mi è parso, dicevo, la beatificazione di Giovanni Paolo II. Tra una settimana esatta avverrà questa beatificazione, sono attesi milioni di pellegrini, milioni di fedeli a Roma per l'evento, ma ci saranno poi già nei prossimi giorni tutta una serie di manifestazioni che accompagneranno appunto a questo momento. Il tema è ovunque, davvero, non credo di aver visto un solo settimanale che non abbia una segnalazione piccola o grande, un'inchiesta piccola o grande dedicata appunto alla figura di Giovanni Paolo II. Tanto per dirvi quanto la cosa è grande, vi segnalo che l'articolo di John Allen Jr. sotto il sottotitolo significativo First Report, cioè primo reportage, è il dedicato proprio alla beatificazione di Giovanni Paolo II, anche con qualche perplessità sulla velocità, sulla rapidità con cui il processo, questo processo appunto di beatificazione, è andato avanti. Però ricorda lo stesso John Allen su Newsweek questa settimana che lui stesso, cioè Giovanni Paolo II, ha presieduto nei suoi 27 anni in cui è stato Papa, ha portato avanti più beatificazioni e canonizzazioni di tutti i papi precedenti, perché ci sono state appunto 1338 beatificazioni e 482 canonizzazioni. È stato poi anche un papa che, come sappiamo, come ci ricordiamo, ha viaggiato molto, è stato molto visibile, molto tangibile anche per chi magari non cattolico non è o non è così vicino alla Chiesa cattolica. Questo su Newsweek, solo per darvi l'idea di quanto l'evento che avverrà tra una settimana abbia una portata planetaria. Diamo qualche indicazione, così traiamo, direi, da Famiglia Cristiana, quasi doverosamente uno dei settimanali direi più titolati a occuparsi di questa materia. Nelle primissime pagine, nelle prime pagine di Famiglia Cristiana, si spiega che già sabato ci sarà appunto una veglia di ringraziamento con una celebrazione alla memoria, quindi questo avverrà sabato. Nella seconda parte appunto di questa veglia ci sarà la celebrazione dei misteri del Rosario, ci sarà un collegamento TV con 5 santuari, tra cui uno in Polonia, uno in Tanzania, uno in Libano, uno in Messico e uno in Portogallo. Al termine ci sarà poi la benedizione del Papa Benedetto XVI. Ci saranno aperte tutta la notte sulla via per San Pietro 8 chiese, questo nella notte tra sabato e domenica, e sacerdoti di diverse nazionalità appunto saranno lì per confessare i fedeli. Il clou della cerimonia di beatificazione avrà inizio alle 10 di domenica 1 maggio, in coincidenza appunto con la festa della Divina Misericordia. Ci saranno 14 maxi schermi montati in diverse aree di Roma, perché appunto, come sappiamo, l'ingresso in piazza San Pietro sarà libero, non ci sarà necessità di biglietto, ma sarà molto difficile che con una simile affluenza si riesca a trovare posto in piazza San Pietro o nelle vicinanze. Questo appunto quello che segnala Famiglia Cristiana. Poi altri dettagli li trovate naturalmente nella rivista. Vi segnalo anche che, occupandosi dei programmi televisivi, il magazine ci ricorda come già da lunedì, cioè già da domani, Rai 3 parta con un documentario proprio dedicato a Giovanni Paolo II, e poi sabato, via via nella settimana, ci siano altri programmi, sabato altre proposte appunto televisive sulle maggiori reti. Questo per quanto riguarda appunto Famiglia Cristiana. Ma alla beatificazione è dedicato anche un numero speciale di Epoca. Epoca torna in edicola in qualche modo per questa circostanza, ed è proprio una raccolta, un numero che trovate, viene definito numero da collezione, però al di là dell'enfasi con cui chiaramente noi giornalisti tendiamo a presentare i nostri prodotti, la definizione ci sta, perché trovate una serie di raccolte, una raccolta di articoli scritti anche da firme importanti sul Giovanni Paolo II durante il suo pontificato, e poi una serie di indicazioni, di giudizi, di memoria, appunto, anche da chi ha lavorato molto vicino al Papa. Bello il lavoro dei viaggi del Papa. Giovanni Paolo II è stato, come sappiamo, un Papa che ha viaggiato molto, moltissimo, ha visitato appunto una quantità enorme di paesi, e si calcola che abbia percorso 1.200.000 chilometri proprio durante il suo pontificato. Viene ricordato in due pagine di questo numero speciale di Epoca. Per questo numero speciale io non vi voglio però citare un articolo, in realtà credo che poi ognuno possa trovare nella figura, nella memoria di questo Papa anche le cose più significative, ma vi voglio citare la scelta molto efficace dell'ultima pagina di Epoca, in cui compare una piccola foto della finestra da cui si affacciano i papi e una pagina completamente bianca con due apici, due di quei segni che usiamo appunto per aprire e chiudere un discorso. La pagina però è all'interno di questi due apici assolutamente bianca. Spiega una piccola didascalia che il 30 marzo del 2005 Karol Wojtyła si affacciò dalla finestra di Piazza San Pietro e fu la sua ultima apparizione in pubblico. Il Papa era già malato, era già gravemente malato. Cercò anche di parlare, ma non ci riuscì. Questa pagina, completamente bianca appunto, è un omaggio alle parole che non disse. E naturalmente anche noi, anche il gruppo del Sole 24 Ore propone alcune cose su questa circostanza della beatificazione di Wojtyła. È in edicola proprio da pochissimi giorni un volume che si chiama Karol Wojtyła, l'uomo e il Papa, e che è una biografia per immagini sulla vita di Giovanni Paolo II. Queste immagini sono tratte dalle collezioni del servizio fotografico dell'Osservatore Romano. È in edicola e in vendita dal 21 di aprile, quindi già da qualche giorno. Lo trovate in vendita abbinata con il nostro quotidiano. Costa 14,90 euro. È un volume diciamo di una certa importanza, un volume robusto, che è edito da Alinari. Alinari fa parte del gruppo 24 Ore e ha raccolto appunto una serie di immagini per dare una lettura del pontificato della vita di Karol Wojtyła appunto attraverso le fotografie, e così mantenere la memoria dell'uomo, del pontefice, di cui si celebrerà appunto tra una settimana la beatificazione. C'è un'altra ricorrenza, adesso come dire, uniamo un po' il sacro e il profano, però domani tocca anche ricordare che si celebra il 25 aprile. Ecco, devo dire, la concorrenza con la figura di Giovanni Paolo II ha indubbiamente un po' distratto gli autori dei magazine. Vi segnalo tra le poche segnalazioni per il 25 aprile, per le manifestazioni del 25 aprile, il venerdì, che avete trovato con Repubblica appunto l'altro giorno, il 25 aprile, che avrà una serie di manifestazioni per questo 66esimo anniversario, manifestazioni tenute appunto dall'Associazione Nazionale Partigiani. Ci saranno manifestazioni nelle principali città d'Italia e sarà ricco, come spiega appunto il venerdì, il programma delle iniziative a Roma, con tutta una serie di mostre e momenti di memoria appunto dedicati alla festa della liberazione. E allora una piccola citazione su una vicenda di stretta attualità, abbandonando per un attimo gli anniversari. Alla radio, in televisione, sui giornali si è parlato tantissimo del cosiddetto processo breve. Tra l'altro al processo breve sono dedicate anche alcune pagine su Panorama di questa settimana, sono dedicate altre inchieste, altri approfondimenti che trovate su magazine diversi. Però c'è un piccolo trafiletto che potete vedere su Donna Moderna che fa un po' pensare. La domanda era: hai capito cos'è il processo breve? E si chiedeva alle lettrici di rispondere per SMS. Hanno risposto in 168. È un sondaggio assolutamente, come dire, di tipo elementare, non ha alcuna pretesa scientifica, però appunto il 55% degli SMS che sono arrivati hanno detto no, non abbiamo capito cos'è il processo breve. Quindi prima di tutto, certo, noi giornalisti non ci facciamo una bella figura perché forse non siamo stati molto in grado di spiegarlo, ma anche il tema in sé non sembra avere scaldato le coscienze. Ricorda questo breve trafiletto: il 13 aprile la Camera ha approvato il disegno di legge sul cosiddetto processo breve. Ricordiamo che manca ancora il voto del Senato, ci sono comunque discussioni su questo intervento. Il cuore del provvedimento, in realtà, ricorda sempre Donna Modena, riguarda la prescrizione, cioè entro quanto tempo un reato non può più essere perseguito. Per chi non ha precedenti penali vengono ridotti i termini di tempo entro cui il reato decade e quindi non si è processati. Dopo Pasqua, appunto, il testo sarà esaminato dal Senato, poi verrà valutato, lo ha già detto, dal capo dello Stato. Ma gli italiani, le italiane, hanno capito di cosa si tratta? Ecco, sembra di no, almeno stando a questa semplice così domanda posta da Donna Modena alle sue lettrici: hai capito cos'è il processo breve? Più della metà ha risposto no, non abbiamo capito che cos'è il processo breve. Quindi forse, al di là di tutte le inchieste, gli effetti e le battaglie politiche, questo provvedimento non è stato spiegato nei termini dovuti proprio dai mezzi di informazione. Allora, abbiamo ancora un minuto per prima di fermarci per darvi le informazioni sul traffico. Vi voglio anticipare che nella seconda parte del programma parleremo di scienza. Parleremo di scienza con una curiosità che ho trovato sul Venerdì, cioè di cosa era fatta la prima tuta dei primi astronauti. È un aspetto abbastanza curioso, ve lo prometto, ma anche perché su Focus di questo mese c'è la risposta a: ma che succede se si sposta l'asse terrestre? Siccome abbiamo sentito che con il terremoto in Giappone si è spostato l'asse terrestre, bene, Focus ha cercato di spiegarci appunto che cosa succede quando si sposta l'asse terrestre. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Vi avevo promesso due approfondimenti scientifico-tecnologici. Allora, il primo, Giuliano Aluffi, dal Venerdì, che abbiamo trovato con Repubblica. Per sbarcare sulla Luna, Armstrong, il primo uomo appunto a sbarcare sulla Luna, indossò una tuta lingerie. Che cos'è questa curiosa descrizione di questa tuta lingerie? Perché, spiega lo stesso Aluffi, pochi sanno che quando Neil Armstrong calcò la superficie della Luna proteggerlo, c'erano 21 strati di latex e nylon assemblati da mani abituate a cucire corsetti e lingerie. È uscito un libro scritto da Nicolas de Monchaux, docente di architettura all'Università della California. Io l'ho pronunciato alla francese, ma forse ho sbagliato. Comunque, Moncaux, la scrittura, se la volete, all'italiano. Questo libro racconta appunto i vestiti, il modo di abbigliare gli astronauti, e racconta che nel 1954 l'Air Force statunitense aveva bocciato già per scarsa mobilità 5 tute spaziali che erano state preparate dai laboratori della Marina. E allora si rivolse per far preparare queste tute a un'azienda privata, che era la International Latex Company, nota per i reggiseni. Così appunto fu un'azienda che era più abituata a produrre reggiseni e lingerie a produrre le prime tute, a cucire appunto le prime tute utilizzando appunto un materiale che era un composto del latex. Il latex all'epoca, ma probabilmente anche adesso, viene usato per i corsetti. Si aggiunse del neoprene, si imbragò il tutto in una struttura di nylon e in questo modo la gomma, questa particolare gomma, poteva cambiare forma senza cambiare volume. Questa è la curiosità appunto sullo sbarco sulla Luna che ho trovato sul Venerdì di questa settimana. E restando in tema di curiosità scientifiche, tutti abbiamo sentito che il terremoto in Giappone ha provocato uno spostamento dell'asse terrestre. Naturalmente i giornali, le radio si sono affrettati a spiegarci che questo è uno spostamento che ha effetti impercettibili, e così conferma anche Focus, che è in edicola, il numero di maggio già in edicola in questi giorni. Però ci spiega anche che se si inclinasse di più sovvertirebbe il clima, cioè se ci fosse un'ulteriore inclinazione allora sì, potremmo avere degli effetti sul clima. Si imparano però diverse cose. Allora, data la buona notizia, cioè l'inclinazione ulteriore provocata dal terremoto giapponese non avrebbe effetti di rilievo sul clima terrestre, però ci sono una serie di indicazioni che è utile approfondire proprio su Focus. Innanzitutto, di cosa parliamo? Parliamo dell'angolo che l'asse della Terra crea con il suo piano dell'orbita. La Terra non è infatti assolutamente perpendicolare al suo piano dell'orbita, questo ricorda anche Focus, e ha un'inclinazione che in realtà non è proprio stabile, perché si spiega che l'asse di rotazione terrestre si sposta sempre, leggo sempre da Focus, cambia la propria inclinazione in un periodo di tempo direi abbastanza lungo, 41.000 anni, dai 21,1 gradi ai 24,5 gradi. Questo è un calcolo che è già stato fatto nel secolo scorso. Comunque, nel corso dell'anno l'asse di rotazione si sposta già di un metro per effetto delle correnti atmosferiche e oceaniche, senza conseguenze sul clima. Quindi l'asse terrestre è già portata di suo a dei micro spostamenti. A stabilizzare, per così dire, l'angolo della Terra è stata la presenza della Luna, perché dal momento della sua formazione la presenza di questo satellite ha attenuato le oscillazioni dell'asse terrestre. Questo è avvenuto perché la massa della Luna è considerevole, è un 81esimo di quella della Terra, e quindi la Terra non oscilla moltissimo sul suo asse. Marte invece, spiega sempre Focus, ha un asse di rotazione che oscilla naturalmente sempre nei milioni di anni tra gli 0 e i 60 gradi rispetto al suo piano orbitale, e questo porta appunto su quel pianeta delle variazioni climatiche fortissime, perché poi ci sono delle simulazioni che vengono presentate appunto su Focus che spiegano, se avessimo un'inclinazione dell'asse terrestre doppia rispetto a quella che abbiamo, cioè di 45 gradi, avremmo ancora appunto l'alternanza delle stagioni, ma avremo differenze molto più marcate tra una stagione e l'altra. Se invece la Terra fosse esattamente perpendicolare, cioè ruotasse stando esattamente perpendicolare sulla sua orbita, sparirebbero di fatto le stagioni. Poi c'è anche una tabellina che fa vedere quanto sono inclinati appunto sul piano orbitale i vari pianeti dell'asse terrestre. Vi segnalo che Venere sta a 177 gradi di inclinazione, poi Urano con 97. La Terra, ripeto, con il suo circa 23 gradi di inclinazione è ancora uno dei pianeti meno inclinati, meno della Terra soltanto Giove, che è inclinato solo di 3 gradi. Questo per, naturalmente, anche come corredo la buona notizia relativa al terremoto in Giappone: questo spostamento dell'asse terrestre non avrebbe particolari influenze sul clima, sull'andamento delle stagioni terrestri. E passiamo da una scienza a un'altra, dall'astronomia all'economia. Luca Ricolfi su Panorama di questa settimana parla di disoccupazione, cercando anche di sfatare qualche pregiudizio, qualche sentito dire che viene alimentato a disoccupazione appunto giovanile, disoccupazione degli immigrati rispetto alla disoccupazione degli italiani, quindi dei non italiani rispetto agli italiani. Allora spiega Ricolfi ad esempio che gli immigrati negli anni della crisi hanno effettivamente guadagnato 600.000 nuovi posti di lavoro e gli italiani ne hanno persi quasi 1 milione. Però, spiega Ricolfi, sembra che qualcosa stia cambiando. Si segnala che nel nord-est i corsi per badanti sono frequentati sempre più anche da italiane, i posti da operaio tornano ad attirare non solo gli immigrati. È possibile che, come risposta alla crisi, una parte degli italiani stia ridimensionando le proprie aspirazioni, che anche per questo gli stranieri, pur continuando a occupare la maggior parte dei posti che si liberano, siano per la prima volta in seria difficoltà sul mercato del lavoro. Però si dice che gli immigrati sono poi in Italia tutti occupati. Non è proprio così, spiega Ricolfi. Il tasso di occupazione degli stranieri, è vero, è molto più alto di quello degli italiani. Siamo a un 62% con un 43,1%. Però è anche vero che su 100 stranieri disoccupati sono 8,2, su 100 italiani 3,8, così scrive Ricolfi. Soprattutto è vero che nell'ultimo anno all'aumento degli stranieri residenti non si è accompagnato un incremento corrispondente nel numero degli stranieri occupati. Quindi alcuni numeri che correggono la tendenza a vedere gli immigrati tutti facilmente occupati, perché disposti ad ad accontentarsi magari di mansioni non più richieste dagli italiani, e gli italiani invece sempre in ritardo rispetto alle possibilità di occupazione che vengono offerte agli immigrati. Da Luca Ricolfi su Panorama di questa settimana. E veniamo a una tutt'altra materia. Abbiamo cominciato parlando della beatificazione di Giovanni Paolo II, chiudiamo in qualche modo con un altro settimanale che si occupa in copertina della beatificazione di Giovanni Paolo II, uno dei settimanali che se ne occupa naturalmente, no, non è solo questo, si tratta di Vita. Vita mette appunto in copertina una bella foto di Wojtyła con una domanda: abbiamo ancora bisogno di santi? Beh, a giudicare dal successo che si attende a Roma parrebbe di sì, o quantomeno che la attesa per questa beatificazione sia effettivamente forte. Ma all'interno nelle sue pagine Vita si occupa anche di un altro aspetto della solidarietà, si chiama il sostegno a distanza, cioè queste donazioni che consentono appunto di sostenere gli studi piuttosto che la salute spesso dei bambini, appunto finanziando alcune associazioni. Ci sarà il 27 e il 28 aprile, quindi una settimana che si va ad aprire, un convegno, un forum nazionale del sostegno a distanza a Livorno, e questo offre l'occasione a Vita per approfondire alcuni numeri, alcune grandezze di questa realtà del sostegno a distanza. Dobbiamo sapere che ogni anno noi italiani doniamo 500 milioni, quindi è anche importante sapere poi come vengono usati. La donazione media mensile, secondo la ricostruzione che viene presentata da Vita, va dai 19 ai 26 euro. 500 milioni il valore totale delle donazioni. In totale hanno aderito a un sostegno a distanza 12 milioni di italiani. Tutto questo su Vita di questa settimana. Con questa segnalazione noi abbiamo concluso il tempo a disposizione per oggi. Nel rinnovarvi il nostro augurio di buona Pasqua, io vi do appuntamento a sabato prossimo per una nuova puntata di Magazine 24. Grazie ancora a Mauro De Angeli, buona Pasqua anche a te, che mi ha accompagnato questa mattina in regia. Grazie e auguri ad Anita Panizza, che mi ha aiutato a preparare questo programma. Magazine 24 ritorna sabato prossimo.